ora ci vuole in casa, non vuole sapere mosse, non si sa mai. Ma adesso mi ha preso la passione per il karate, mi piace. Poi ha fatto amicizia con quel gruppetto di ragazzi che fanno karate con lui e si trovano bene, sono molto affiatati. Sì, quelli sono dei bambini, ma si sa che il karate non si può usare, almeno che siano due o tre persone contro di te, allora lo puoi usare. Ma nuovo è nuovo, è questo capriduna. Ma c'è nessuno? Sta parlando, no? Avanti, lui. Ma che è? Non sto masso masso, chi è? Capri 2. Molte volte mi arrivano sparato radio Super 5, molte volte non lo sento, mamma mia, che casino, ragazzi. Ciao Gianni, Capri 2. Mi lo senti a lui? Adesso è scomparso proprio. Perché usa diversi baracchini, capito? Ogni tanto ne usa uno che esce in basso, c'è quelli che escono bene, usa sempre gli altri. Sì, sì, Santiago Rob. Ok, allora già, hai capito, mia moglie mi sta già guardando male, quindi me l'ha preso con voi già. Perché? Perché ti stai guardando male? Ok, perché pensa che questa roba faccia che la senti, vero già che viene il contattore con questo, hai detto tu la volta, lo so, le bollette che arrivavano, rifatti da quello che questa Gigio attaccato è arrivato un po' più di luce. Ma è valvolare, se è valvolare assorbe un bel, se invece è trasistorizzato molto meno, il valvolare per scaldare le valvole succhia l'ombre di luce. Già lo so, già lo so, spero, tanti zitto se no Luca non mi copia. Ma spegnere che ti sta consumando tutto quanto, tutta l'energia in casa. Ok, perfetto. Luca riprendi, scommetto che stasera non sei al computer. Io sempre. No, allora sto ordinando dei pezzi che mi devo mettere a posto, un tablet, devo cambiare, vabbè già smontato e tutto, devo cambiare un, aiutami, un touchscreen, poi devo ordinare altri pezzi per un altro per un computer, le plastiche sono rotte, cadute intero, questo computer lo devo sostituire, o le scocche come lo vuoi chiamare, poi devo ordinare pezzi di cellulari, guarda, sono un po' cercando, cioè meno spendo più guadagno, no? Cioè, più riparlo meno guadagno, Gianni, capito? Che secco! Stiamo ascoltando un più parlando, sa? Io. Ha detto di evitare di farglielo attaccare i miliari. Cosa c'è? Mi c'è il 31. Non più un rumo, guarda la Gigi. No. Ma non c'è nessuno. Voce di genere, una voce calda che mi fa addormentare. Ma no. Come dromo? No, mi dromo, Luca. Luca deve essere che si è addormentato. Gianni. Domani c'è anche la lavori, Gianni. E all'una e mezza lavori domani. Cosa sei tu sull'IFA? Come non rispondo? Ti sto rispondendo. Se tu non parli non rispondo. E circa, mi ha detto un mesetto. Poi se ti interessa ce n'è uno più avanti del mercatino delle Puzze che è aperto. E anche lì c'è una fisarmonica, un VHF e un baracchino, col Mike Tenco, quello che assomiglia alle MV più 2-1. Chi è andato a vedere quel mercatino lì? Io non ho visto che baracchini così, io non li ho visto. Ma quando è che sono andato? Ah, sì. No, negativo, io non ne compro, non ho mai comprato, dico la verità, sono sempre scroccante così, nel senso che se c'era un amico andavo a guardarle, ma non ho mai preso. Cava, cava. Sì, infatti. Ma domani vado a vedere un po', a curiosare, domani dopo che faccio la commissione vado lì. E questo capello ti è arrivato già. Sì, già. Se è nuovo, io non so se tu l'hai visto questo apparato. Ma da internet l'hai preso. E quel VHF che c'è in quel negozio lì è Maria, è di quelli VHF Maria. E sto dicendo che le ha che ci ascolta, ma non entra, capito? Si usa un software per fare ascolta, basta. No, te la appoggio. Poi, un pugno. Ma della zeta gira in mezzo a tre, perché ce n'è uno pure di da coso, in quel negozio dell'usato, mi ha detto che ce n'era uno. TBC questo è di mamma chiato, come non fatto già lo sai, sono uguali, non c'entra niente questo. Ascolta, sono interrompiti che domani sera non dovete telefonare, ti voglio chiedere una cosa. Che fai tu? Io ho capito, non lo so chi stava dicendo, questo a te. Deve essere saltata la luce. Cavagà. Sì, stai ricomponendo questo apparato perché te l'avevo regalato così. Niente, non è uscito. Antonello, vuole sapere capire se lo devi telefonare. Ora, domani sera. Qui senti. A chiamarmi domani sera. Presidente. Non è come sa di chiamarmi, che devo chiedere un favore. Al telefono. Ma chiamami tu domani sera, dai, con calma. Penso di sì. E non a me però, a un amico. No, serve per me domani sera, non ti preoccupare. Che risposta? Che cosa, chiamami domani sera, basta, te lo chiedo domani sera, no? Mi serve un favore per qualche radio, non una radio mi serve. Ehi, e vabbè tu, ma se la chiamo io non c'è problema. Tu ti avevi chiamato. Tu chiamami domani, fregatene. E secco, ancora non hai capito. Lo so. Non dammi più di burli. Non ti preoccupare, ho detto, già te lo chiedo domani. Cavagava. Sì, che ce l'hai. Cazzo lui io già. Sì, non ce l'hai, se ce l'hai, a voglia che ce l'hai. Windy. Non è Windy che ho, mi te lo sai. Windy. Farmacia. Windy. Voglio già la fai lunga, già. Cazzo, da lì soli per telefonarti. Tanto lei. Guarda, quando sei venuta a prenderti la linea, questo già ce l'avevi dopo il telefono, barrando. Ma non vuoi le cose tu, già vieni veloce, già, Gianni. Sei sicuro? Io sto parlando con il telefono, dove sono tutto da voi, che mi hai telefonato subito. Vabbè, comunque, ma tu chiamami a cosa, al telefono, da cui vediamo. Yeah, se vuoi te lo do io il numero di telefono di Antonello, non c'è problema. Da, già te lo do io. Taglielo già, 340 92, lo metto nel 110. 340 92 93 0410 210. Io non so 20. Oppure 26, 18, 26. Via Marco, mi chiamo Marco. Ah, il Marco Condo. Io sono del confesso, lo sai che non ho fisso. Cellulare, un Mittel. Non consumi neanche 50 centesimi, prenditelo, ma se sei un Mittel anche tu. Dice wifi come cosa. Avete visto che ha vinto la Juventus? Cava. A me mi interessa più mio figlio che ha vinto la cintura ed è uscito tutto contento. Che cintura ha vinto? La gialla. Io non me ne intendo di com'è là. Va bene, vabbè, una vittoria sempre è una bella soddisfazione. Mi invoglia anche a migliorare. Vabbè, ha dato il diploma, tutto qua. E ha fatto proprio l'esame, capito? Ma era lunga, oi. Ho fatto delle fotografie anche. Ma era un bel lunga. Poi il bello che stasera c'avevo Manuela che cantava la piazzetta. E lui che doveva fare questa cosa qua. Siccome Manuela già siamo andati a vedere l'altro giorno, ho detto ma consentiamo a lui, oggi andiamo da lui, ma pensando di farcela piegare anche da Manuela, perché Manuela stava facendo una festa mascherata per bambini e cose, quindi saremmo ritornati a casa, messo il vestito a Marco e saremmo andati lì. Te la tenere Antone così risparmia la telefonata. Antone. Marco. Eia. Il capito ti sta salutando. Ehi, c'è una la TV alta qua. Ciao Gianni, ciao. Adesso bisogna stare attenti come si spendono le soldi. Aspetta. Non si possono buttare telefonate così. E io ho il contratto, non me ne frega nulla, pago quel tanto al mese, 30 euro al mese, e forse il telefono di chi voglio, fuori, in Italia, all'estero, dove voglio. Tua. Ho capito. E vabbè, ma Antonio sta chiedendo una cortesia, te ne sta facendo un'altra grossa, non si è diventato e fa via che sta telefonando, non mi sa manco di voce. Che casino che c'è qua, c'è la TV alta, quindi qui sentiamo la pena. Ma che a me sentiamo la pena, che siamo offesa, No, è che in cucina c'è mamma con questa lirica, adesso c'era... C'è un programma sulla lirica e mi sta gonfiando. Ti piace la canzone lirica? È un programma che parla della Callas, di Maria Callas. Uh-huh. Magari lì facevano le operette o queste cose qua. Ehi, la lirica e anche la classica. Io sono la classica, la lirica non la sopporto. A me quando vedo i canzonisti mi viene da ridere. Una volta sono andato in un teatro e mi stavo pisciando la letta, ma sono forza andare. Vabbè, io vado da tutti i generi, dal death metal fino alla alla classica. Dimmi. No, non ce l'ho io il numero adesso, ho provato, ma ce l'ha fatto lui. Alessio. C'è farato. Io devo andare a mangiare. Ho già mangiato a metà prima, adesso devo terminare. Vi devo salutare purtroppo. Oggi è andata così, così per la radio. Io ho messo mai sotto mezzo chilo di io, forse mi basta. Lo sai già? magari questo qua sono talmente bene che poi lo ritrovi, figurati. Cazzo, non asciuttava. Cosa? Non ho capito. E chi ha Ottavio? E me è passato. E adesso ho piatto io. Prima che tu mi hai dato due chili di fritte, adesso ho mangiato piano piano. Andiamo a mangiare. Io voglio fare le frittelle. Meglio così, sono contento. Ok. C'è qualcuno che ci vuole fare compagnia avanti? C'è nessuno. Come la radio 5 è bella, sì. Se la radio è bella, come mi ascolti? E già va bene, ok. Gianni, capi, ma... Gianni, il caldo. Sparito, Gianni. Così è. Avanti. Così è. Ah, Marco, tu sei che mi chiami nervo. Ehi, Gianni, dimmi. Oh, già ho sentito quando hai detto Marco deve essere a mangiare. Ho finito da poco. Ho mangiato un po' di lasagne, un po' di fagiolini girati in padella con burro e formaggio. E un pezzettino ancora proprio piccolo di salsiccia arrosto. Positivo. Rimango che si sente bene a Malacchio, sì. Marco Condor. Ah, ma era, sì, amplificato. Anche troppo. E senti un bip singolo, corto, che mai che. Gatto, e a chi l'hai rubato e dove l'hai rubato? Me l'hanno dato, bello, un MFM, guarda, perché sei anche la C. Ehi, ma il mic cos'è? Non è il Densei? Il microfono è da metà mio. Il bip è da tiro suo. Come si chiamava quel mic? Densei? Quello che era, mi pare, rosso. E rotava, tipo la tua. Tu? Mi sembra il Densei. Ho capito. Hai detto che ti sei preso un portatile, ma CB. L'Inter 50, ciò. Aspetti chi ha, vediamo se mi senti. Prova un po', già ti sento, però zero quasi, un po' basso. E dentro casa purtroppo non rende. E qual era Antonelli 50? Aspetta, quale poteva essere? Indicom 50 LX? L, ho capito. Io ho avuto un apparato che era LX, ma non mi ricordo la sigla bene. O mi pare fosse Indicom 20 LX, era col display digitale. Ricordo che l'ho bruciato una sera, ci siamo messi con uno, ci siamo dati il turno, a furia di far schiattare Falcone abbiamo bruciato l'apparato, da quanto stavamo trasmettendo, capito? Finalmente è morto. No, ecco, portatile. E portatili non ne ho avuti molti io, perché più bello era l'Excalibur 80 che caro amico ha bruciato. Perdite poli, ha fatto un disastro, ha fatto. Poi faceva con meschini metodi, faceva vedere che funzionava ancora, allucinante. Beh, tutti morti. Tutto ha bruciato, tutto. Sono diventato. Se non è morto, quindi, madonna, c'ho la speranza. Ciao Capri 2, non mi parlare di sveglie. Svegliarmi, tentare, ho messo due sveglie, due cellulari, lo stereo e la TV, che si accendono ogni quarto d'ora, ad intervalli di un quarto d'ora. Ciao Gianni, no, parlavo di pomponi, speravo che fosse che avesse bruciato qualcosa, invece no, erba cattiva non ne muore. Quando sono mandato prima ce l'ho quello. Sei tutto scorreggiato, almeno esci bene. Sì, io a tutti. No Antonella, non troppo forte. Devi abbassare appena, se no strappa. Adesso? Adesso hai abbassato troppo. Adesso? e una via di mezzo di trovare. Oggi è stata una giornata strana, sono tutto scombussolato, quindi andrò a letto prima. Sì, tanto per tentare di svegliarmi. La prima suona una sveglietta alle 10, la seconda suona alle 10 e un quarto, il primo cellulare suona alle 10 e mezza, il secondo cellulare suona alle 10 e 45, poi alle 11 si accende la TV e alle 11 e un quarto si accende, no, alle 11 lo stereo e alle 11 e un quarto la TV. Che la sveglia del giorno dopo sicuramente in anticipo. Ma quello che ti volevo dire io, guarda che sugli Indicom, siccome mi è capitato anche a me di invertire la polarità e di bruciarlo, ma si brucia il liodo di protezione, basta cambiare quello e non c'è problema. Era un Excalibur 80, bellissimo, era l'unico portatile che aveva. Il mic, la presa a 4 poli per il mic esterno, normale, no, normale mic, lo smitter, l'uscita cuffie, l'uscita antenna, poi aveva 40 canali normali e 40 sotto, poi non mi ricordo cosa altro aveva, me l'ha bruciato un super pippa, me l'ha bruciato, capito? Super pippa, anche Giuseppe. Eia. E allora ci ha attaccato il generatore di segnale, messo a manetta per farmi credere che ricevesse ancora, invece era bruciato, capito? Poi si è messo, ma sai, questa radio è sempre stata un po' sorda, mai stata sorda, andava benissimo come portatile. Ci è voluto lui a sfasciarmelo, allucinante, guarda. Ma che fine ha fatto a proposito? No, già c'è sempre a quel laboratorio, ascolta anche. Ciao Giuseppe, caro amico, ascolta anche lui qua. Mi dice che sembra ascolta e sa tutto. Sa tutto, è beato lui. Appena è bella soddisfazione, cro. Ma non solo, Antonio. Un FM500S stava facendo una modifica, lui cosa fa? Molla la matassa di stagno sullo stampato. Lato saldature. E anche l'FM500 si ha preso il volo. Chi è che voleva entrare? Chi è? Ma è un braccio. Ah. Luca. Che vuoi un braccio? Capito ancora. Capito. Immaginati, col suo piastagno doveva operare. Ovviamente con l'apparato acceso ci mancherebbe. Ma lui, io mi ricordo che era fidanzato con una che si chiamava Heidi. Eia, poi è finita che Mario ha detto che era un casino, era tutto, lo stagno è caduto in più punti, è un casino, era bruciato l'apparato. Allora, di sua tasca, Mario Notari mi ha dato un FM500S nuovo. Ma gente, io come sto uscendo? Molto basso. No, va abbastanza bene. Voglio ricordare anche per lui che ha l'ascolto che con mezzi meschini stava simulando che l'apparato riceveva, capito? Che mentre quell'apparato era senza antenna, aveva un altro apparato con antenna, lui stava premendo il mic dell'apparato con antenna, cosa succedeva? Che sull'apparatino in questione saliva il QRM, c'era una specie di, non so come chiamano, intermodulazione, e lui diceva vedi che riceve, vedi. Sì, tu quanti anni avevi? Quanti potevano essere? 14, una cosa del genere, 15. E gli ho detto, Giuseppe, togli la manina dall'altro microfono che vedo chiaramente che il segnale è generato dalla portante dell'altro apparato. Ma chi frequentava in quel periodo? Tutti vici. Luca, hai finito di diventare cieco? No. Oggi 17. Ma la fogna chi è invece? Io Anto, e la salsiccia mi sta salendo su. Ma sei di gute, ma non ti siete accaldà, no? No, si siete accaldà in culo, che sta salendo da lì, capito? Ma ti piace l'agnello, no? Ecco lì. Problema, lo sai che cos'è? Che si era attaccata in culo anche con i piombini, prendete quei piombi che mettevano per chiudere il laccio, anche quelli stanno risalendo. Poi si saranno accorti dopo dopo 100 anni che il piombo era nocivo e li hanno eliminati. Sono stati interrogati ancora, anche sono gli stessi sigilli che mettevano i contattori dell'acqua. Sì, è vero. E per caso erano quei piombini con cui piombavano anche le televisioni o roba del genere? Televisioni piombate non ne ho mai visto, però questo bisogna chiederlo al tecnico. Il che si diceva che se non pagavi, era successo al padre di una mia ex. Lui non voleva pagare, giustamente, perché la RAI è una checchè. E sono arrivati questi signori, gli hanno applicato dei sigilli al televisore. Lui è andato nel garage, ha preso l'altro televisore buono e l'ha attaccato. Sì, ma poi ti ripeto, questo di piombare i canali, lo sapevo, te li dovevi far piombare, allora potevi anche non pagare il canone. Mamma Rai, che mamma Rai, quando ti costringi a pagare per una emittente che non segui mai. Io guardo le reti del pervertito Berlusca, almeno ci sono quei telefilm scabrosi tipo Nip and Tuck, Shameless e altre cose del genere. Allora conviene guardare canale 52, che ci sono tutti i peggiori cagate di questo mondo, dal banco dei pugni fino a quello lì che si mangia le formiche, gli scarafaggi, se ne mangia poco di merda. Ma chi, quello che faceva quella trasmissione da cui presentatrice era buona, com'era? Non mi ricordo la tradizione, mi ricordo il nome di Fiammetta Cicogna però. Oh, è americano, la Fiammetta Cicogna, è tutta roba americana, tutta mondezza americana questa, non ce n'è roba italiana. So, ma ho visto che era tradotto, Wild, oltre natura, sì, era quello. Mi ricordo che ha preso una larva che si era fatta lunga 15 cm, grassa, sembrava un pisello, come la schiacciata sotto le dita, ha fatto, è uscito tutto il venino, pure sull'obiettivo della telecamera. Immaginate cosa si fa per i soldi, immaginate cosa fanno per i soldi, mangiano merda. Vabbè, eppure una cosa non è riuscita a mangiarlo, tra il grasso del cammello non è riuscita a mangiarlo perché ha detto è rivoltante, è detto da lui, è una garanzia. Lui aveva mezzo vomitato quando gli hanno fatto mangiare, a rabbia, non so dov'era, gli hanno fatto mangiare testicoli di caprone crudi, io ho vomitato, Immaginati. Dico, ma non è meglio stare a casa? Vabbè, ma lì si è fatto tutta questa... Comunque non era un pirla qualsiasi, era, mi pare, nei colpi speciali inglesi, quindi lì li hanno addestrati anche a mangiare l'impossibile pur di sopravvivere. Sì, lo so, lo vedo ogni tanto. Ma ce n'era un altro invece, che questo qua durava solamente due puntate però. E morale, l'hanno paracadutato in un'isola deserta, nudo. E questo qua è dovuto stare di 60 giorni, simulando quello che era capitato a un'altra persona, che lo stesso però realmente era stato naufragato in quest'isola. È stato 60 giorni, cazzo, ma cosa tutta non si è mangiato? Una cosa schifosa, abominevole e rivoltante. Pensa se l'avessero catapultato su un'isola di negri sodomiti. Sarebbe stato contento, avrebbe fatto a cazzotti con Luca. Antonello, di una parolina dolce a Antonio. Culo. A casa mia, a casa tua. È uguale. Ah, io però non potete continuare così, dovete far pace. Fate così, tipo Fight Club. Via tu fate, chi li gani e poi chi rimane in piedi ha ragione. Fa pace eterna che gli diano. Oia. Beh, stiamo diventando scabrosi, dal mio rutto siete diventati scabrosi, dai, chiudo che sono scombussolato oggi. Cercherò di dormire prima perché se no mi tocca andare a dormire alle 5 di mattina come nei giorni precedenti. Mangia un po' di fame, bene, salve scorvecchi. Va bene, ciao Antonio, ciao Luca, ciao Antonello, quelli ti per me. Aspetta un attimino che me ne vado prima io, che così mi saluti anche tu. Vabbè, ciao Luca, ciao Marco, compagno, la saponetta ricordati, ma non è che la devi raccogliere come fai di solito, a ingrassare la corda la devi usare. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao, buonanotte, Laura, meno male. Luca non si pronuncia, avanti, per i saluti Luca. Buonanotte. Mangiano un po' di snack, tipo il Ritz, là. Allora, ma sono buoni, mazza, sono più buoni del Ritz. Ma pensavo che non ce la facessi a schiacciare il mic, che c'è di solito la mano impegnata da mezzanotte in poi. Giugno la mazza, via. Ma lo sai, tanto, come si fa una mazza dopo la mezzanotte in poi, io, cos'è che tu sogni? Direte la mic all'ombrello. Non ci arriva. Ponesi, metti la luce alla. Bene, ciao Antonio, buonanotte, alle prossime. Ciao, dai un bacio prima di andare. Schifo, cazzo, non mi mangio il lardo del cammello, meglio. E un bacio falconiano. Bene, ok. Stai mangiando, Luca? Caso, quelli di imitazione di Risto Saiva, peraltro buonissima, dell'Eurospina hai detto. No, sono buoni, sì sì, snack. Ciao, buonanotte, ciao. Ah, buon pugno. Dimmi, caro. Mi Luca, ce li ho anch'io qua. Allora, snacker della Mambo Kids, buoni, gusto classico. Sì, guarda, non... sembrano Ritz, se uno nella scatola dei Ritz ci metti questi e li mangia non si accorge di niente. Wow. Ne sono già crepato due scatole in pochi giorni, per me cenerei con queste e pranzerei con queste. Buoni, mi ricordo il prezzo, però costano molto meno di Ritz. Io ho pagato 89 centesimi, ma sono veramente buoni, sono all'idetto. Devo spiegare tanta cosa che non serve a niente. Ma questi qui sono molto buoni. Ehi, infatti ne abbiamo una scatola da parte. Ma non durerà molto. Con questi mi fai un Ritz e un sorso di birra. Un Ritz e un sorso di birra. La birra no, cazzo, non ho bevuto abbastanza. L'anno scorso un bel. Quest'anno così. No, basta, birra lì, sennò sto lasciando il panzone, stavo uscendo, no. Aspetta un po'. Birra, dov'è che l'ho vista? Da LT, da Eurospin. Hanno la serie di lattine da 500 della Orange Boom, c'è la normale, quindi 5 gradi e fruscia, poi c'è la strong e 8 virgola qualcosa, poi c'è quella 12 extra strong, 12 gradi, quella è buona, ti crepa subito. No. Io mando quella con le bottiglie, con la lattina in verdolina, quella è buona. Allora, mi dà strana a me, perché non te ne è bello, no. Questa è normale, senza essere doppio malato, normale, non è buona quella. Guarda, se tu la metti a fianco, all'inclusa, praticamente, secondo me, a gusto è più buona quella dell'euro spin. Ma l'inglese è molto meglio a me. Simile da LD anche, si chiama Wangelbrau, è una birra normale, stesso la lattina è verde, è come quella tua di Eurospin. Ti spagna un bene, perché se tu dovessi comprare roba di marca è un casino, vai in fallimento. Invece questi discount ti permettono di avere un prodotto mediamente buono a un prezzo contenuto. Allora, ripeto, questa birra, io qui bevo una bottiglia di birra del, non so, no, forse magari non è pastorizzata bene, ma soprattutto d'estate, che la birra è chiusa, va a fiumi, ma a fiumi veramente. Praticamente mi bevo una bottiglia di quella, mi fa mal di testa, come se me ne abbia bevuto 3, 4, 5 bottiglie. Invece se mi bevo anche due lattine, quella da mezzo litro, mi fa quell'effetto, sì, un po' mi matutura, ma non mi fa mal di testa. Io ho provato per curiosità quella famosa Ichnusa cruda, io credo che avesse qualche sapore strano, l'ho bevuta e non ho sentito nessuna differenza, francamente. Ok. Perché sono, mi diceva, mi ci sei accorto, Marco, te lo ricordi la Faloneo? Marco va? Marco Faloneo, te lo ricordo dalla Chia? No. Marco Pina? No. No, io ho fatto mattina, ieri, stamattina mi ho fatto, ieri sono a me anche sono amicizia, che lui con lo scultorone c'è, ho fatto un assalto, grazie a Dio, tu, ma lo danzono, raga. Sì, lo sto guardando. Il suo, ecco chi era, proprio il suo Antonè, era un Manuele Ginco. E poi c'è l'amicizia a casa di Rolanda, cazzo che la buona rimane la coppina, sta ancora vivo, c'è solo fotografia del danzone. E non è più entrato quello di Porto Torres, si chiamava? E dimmi, c'è soltanto Porto Torres. Ehi, è un po' rompopalle, come si chiama? Un po' robustello, diciamo. Robustello ce ne sono parecchi. Ma non entra più, non è mai più entrato, adesso invece gli altri entrano. Marcello Master. Che è nato una sassa, non è prodotto adesso. Oh, che arrivava a basso. Marcello Master la sassa di era, se ci dico di bene. Il cognato, non so se era cugino di cosa, di Antonio, adesso mi ricordo il nome attivo. Lo chiamavano certi Marcello Guaster. Appunto. Poi, vabbè, adesso parlando di birre, per esempio quelle nere tipo la Guinness, terrificante, sembra petrolio, mi ha fatto schifo quella volta. Mi piacevano le birre rosse, le doppio, triplo malto, quelle rosse, tipo la... chiama quella Giuda, questa è Alzheimer, non mi ricordo i nomi. E lui anche io lo ricordo. Intanto la faccio bene, non ti preoccupare che segui la bella scura. No, scura non mi piace, quelle rosse mi piacciono. Noi la campana morta per Pomponi. Io sono risuscitato di vado l'altro con gli altri, anche se comandavo prima, come dice mamma sempre. Ah, ecco la Red Eric, non mi ricordo chi la fa, se la Turborg o chi, Red Eric. Ma è assaggiata io quella roba. Do chance ne un bel, però quella che voglio non c'è, io volevo la Delirium Tremens. Quella è roba di lo stesso 12 gradi e dal sapore sembra spumante, non sembra neanche birra, ti crepa subito quella. Io non sono mica capace, sono abituato, se vuoi accreppati basta bere la trappola di birra, di quello buono, di sorso, quella talvolta, tocco. Ascolta, aspetta che chiedo a Luca che magari conosci. Luca, il prendi e mi hai provato, se ti ricordi che sapore ha grosso modo? No, mi piace, ma non mi dai whisky, sai che ma lo maroci si sono. Ah, ho capito. No, ero curioso di sapere, di provare il brandy, perché io l'ho gustato un bel anni fa, ma non me lo ricordo proprio, tipo Ketanerami, come si chiama? Grappa? Grappa di chi fu? Non sa di vino, presente un distillato di vino, no, di vino. Il vino proprio di si duole. No, sai perché se voglio sapere come il brindi, non devo prendere quel brindi da 5 euro, quello cinese, devo prendere un brindi buono, tipo quello lì, vecchia Romagna, etichetta nera, dovrebbe essere buono. Alla coppia te lo trovi quello, subito. Come Antonè? Che lo trovi la coppia. Perché io qua ho, per esempio, il gin e il rum. Il gin è molto pungente come sapore, è molto alcolico, più che altro è per gli ospiti, ma siccome qua ospiti non vengono alla fine. E poi ho il rum, l'Havana Club è quello invecchiato 7 anni, però ti dico, non è un granché. Anche molta gente si è lamentata che non è tanto buono. È migliore il Pampero, quello da 10 euro e fuscia, però è special. Ma se vuoi ospite, non c'è problema, guarda che io a me a Lucca ti facciamo fuori il coso, me. Il frigorifero. Ma Lucca beve solo birra, no? Ma allora, io ho lavorato, aspetta, a comune tra 2011-2012, a Zuc. Allora, sono crepati, vabbè, ormai ho detto qualche cicchettino, sambuca, un mirto, no? Poi sono messo in questa scuola, vabbè c'era caldo dentro, sì, ma comunque abbiamo deciso con questo amico, no? Questo collega, di comprare la bottiglia di mirto. Ma ci hanno regalato bugia, fatta in casa, una bottiglia da un litro. Ci abbiamo crepata, se non ho in 2 giorni, da mezza bottiglia, mezza bottiglia al giorno. Poi vabbè, se questa bottiglia è finita, l'abbiamo comprata una, l'ho fatto colletta. Ci sono crepate anche quella, ma comunque adesso per alcuni c'è un bel guai, basta adesso, sono bloccato, se no guai. Mamma mia, che cosa umana, mi sono preso un fondino di gin, porco Giuda, gin Gordos per digerire, mamma mia, e il gin è forte, sono 40 gradi. Ma tutti ci vuole per digerire. Quanto? Tutti ci vuole, ma tutto per digerire. Guarda, non so, ti dici subito, ti fa giusto giusto. Minchia. Ah, ciao, abbiamo preso un amico. Ah, come godo, mamma mia, te forte. E così, infatti la bottiglia è intera e rimarrà intera. Ma se non mi svoltare, ce lo vediamo io e Luca, non c'è problema, ci inviti. Noi sentiamo se te lo inviti. Non ci morire qua, Marco. Dimmi, Luca. Ho detto, non ci morire qua. No, ma ne ho preso proprio me. Ha preso un bicchiere in plastica, di carta, in plastica, trasparente, no? Ho messo, quanti saranno? 5 millilitri, quindi, va, fanculo, mi sta cominciando a entrare in circolo. 5 millimetri di bevanda. 5 millilitri, so. No, millimetri, cioè se guardi il fondo del bicchiere, grosso modo 5 millimetri. Ma si calcolano millimetri quelli, no? I millimetri, lo so, cosa. Vabbè, comunque sì, va bene lo stesso. No, ma dico, grosso modo quello che ho messo è quello. Ma è altezza, no? Immaginati 5 millimetri di fondo, ecco. No, se no ti crepa, è affascinante. Fa anche, mi sembra che faccia digerire, poi quella cosa buona, latte di suocera, 85 gradi. Tu hai detto, fusare macola. Ma non è mica. Ma non si beve mica puro, ci mancherebbe. Allora, le istruzioni sono queste, mettere in un bicchiere 30 ml di prodotto, aggiungere un cubetto di ghiaccio e attendere pazientemente che si sia sciolto. E poi lo puoi bere. quindi penso che questo grosso modo sia 30 millilitri, che è come se mettessi metà acqua e metà latte di suocera. Tu cosa se mi metti un po' di acqua calda invece posso di quello? Come piglia il volo? Poi per i palati più fini c'è l'assenzio, si beve con acqua ghiacciata, devi mettere dai 2/3 o parte di acqua ghiacciata, bene soprattutto d'estate perché è una cosa fresca. Peccato che costi 50 euro a bottiglia. E quando mi chiamo il coso all'otto lo compriamo, Marco. Ma tu non ti capisco con questa radio, è tutto quando mi chiamo all'otto lo compriamo. E cosa? L'assenzio. Ah, insomma c'ero già io, è quasi finito, è durato vari anni. Poi si mette una tolletta di zucchero, ci vuole naturalmente il cucchiaino da assenzio, che è tutto forato, ha una forma particolare, e fai scendere l'acqua ghiacciata goccia a goccia. Quando hai raggiunto la proporzione giusta, mischiata appena appena e bevi, diventa bianco, come lo sai, da verdolino trasparente che ha tipo clorofila diventa bianco, attiginoso, no? Che buono, che buono. Beh, sai che adesso me ne vado direttamente a letto e ci vediamo domani, mattina, se entri a baracchino, ci beviamo una cosa. Bene Antonello, ci sentiamo, dai, a posto passo. D'accordo, a domani, ciao. Più già tardi qua, adesso mia madre me ne piomba qua. A domani, buonanotte a tutti, ciao Marco, buonanotte. Ciao Luca, ciao Antonello, buonanotte, a domani.